La scuola, la prima confessione e la prima comunione, 1794-1799. Uno scolaro modello. Giudicando da diversi fatti della sua fanciullezza, dobbiamo dire che nel piccolo Viennei la ragione si risvegliò molto presto. Non era certo un ragazzo tardivo. Ma dobbiamo anche riconoscere che all'età di 9 anni egli, eccetto nelle cose di religione, non conosceva quasi niente della scienza umana. Sua sorella maggiore, Caterina, gli aveva insegnato l'alfabeto ed egli sapeva leggere, sillabando, un libro di preghiere. Ma era ormai tempo che frequentasse la scuola e, disgraziatamente, a dar di lì, la scuola non vi era più. La legge del 19 dicembre 1793, 29 firmaio, anno secondo, esigeva che tutti i fanciulli di 6 anni almeno o di 8 anni al più tardi frequentassero le scuole pubbliche per 3 anni di seguito, sotto pena per i genitori di una multa uguale a un quarto delle loro imposte. L'istruzione si sarebbe impartita in comune e sarebbe stata obbligatoria per tutti. Così, pensavano gli uomini della Convenzione, l'istruzione si svilupperebbe anche nei più umili villaggi. Ma questo era un sogno irrealizzabile, perché in Francia la rivoluzione aveva soppresso anche la sorgente della istruzione. La legge del 29 firmaio proclamava nel suo primo articolo la libertà di insegnamento, ma non concedeva a nessuno di aprire una scuola se non avesse antecedentemente prestato il giuramento ed ottenuto il certificato di civismo. Di più, nessun membro di una congregazione religiosa, nessun prete, anche se avesse consegnato le sue lettere di ordinazione, avrebbe potuto essere scelto come maestro. Ovunque vi fu scarsità di maestri giacobini e la piccola scuola di Dardigli, tenuta fino al 1791 da un buon cristiano, da quel momento fu chiusa, né fu più riaperta. Anche nel campo dell'istruzione elementare, la caduta di Robespierre, 27 luglio 1794, 9 termi d'oro anno secondo, provocò una felice reazione, perché la Convenzione abolì tosto il giuramento di civismo richiesto ai maestri e riconobbe a tutti i cittadini il diritto di insegnare. 17 novembre 1794, 27 brumaio anno secondo. Fu in forza di questa tolleranza che al principio del 1795 il cittadino Dumas aprì una scuola a Dardigli. Si era nella cattiva stagione, epoca in cui i fanciulli non erano impegnati nei lavori agricoli, ed il nuovo maestro, un buon uomo senza dubbio, vide giungere numerosi allievi. Erano materia di insegnamento, oltre la lettura, anche la scrittura, il calcolo, la storia e la geografia. Anche qui Giovanni Maria si distinse tosto per la sua condotta e per la sua applicazione. Il maestro Dumas, racconta Margherita, era molto contento di lui e sevente diceva agli altri: «Dovreste fare come il piccolo Viennei». E veramente i suoi progressi dovettero essere abbastanza sensibili, perché lo vediamo nelle lunghe veglie d'inverno ripassare il catechismo, spiegarlo a Goton, sua sorella minore, od anche leggere ad alta voce la vita dei santi, fra la religiosa attenzione dei suoi familiari e dei poveri. I missionari Grobot e Balley. Disgraziatamente la chiesa rimaneva sempre chiusa. Dopo la morte di Robespierre c'era stato un momento di speranza, perché la persecuzione sembrava essere divenuta meno violenta. Difatti il decreto di Ventoso, 3 Ventoso anno terzo, 21 febbraio 1795, aboliva il culto dell'ente supremo inaugurato dalla Convenzione e sopprimeva la costituzione civile del clero. Ma appena 3 mesi dopo, l'11 Pratile, 30 maggio, un nuovo decreto annunciava che nelle chiese che si sarebbero riaperte nessuno poteva occupare posti di ministero religioso di nessun culto, prima di avere prestato atto di sottomissione alle leggi della Repubblica. Il vecchio parroco di Dardigli, Don Rey, non si vide più, né alcun prete libero dal giuramento si presentò mai per le funzioni religiose nella sua chiesa. La famiglia Viennei, che non avrebbe gradito un pastore sottomesso al decreto dell'11 Pratile, continuò ad assistere alla messa che si celebrava nelle case private. Sino alla fine del 1794, i preti cattolici, rimasti nella regione lionese nonostante le leggi di morte, in tutto neppure una trentina, assicurarono il servizio religioso senza ordine né continuità, passando nei diversi luoghi perché nessuna residenza fissa era loro possibile. La Francia era diventata peggio di un paese di missione. Frattanto, sentendosi sempre più il bisogno di organizzazione, il vicario generale Monsignor Linsolé, rimasto in diocesi, nascosto e travestito, mentre il vescovo Monsignor Marbeuf aveva creduto bene salvarsi in esilio, nella primavera del 1794 divise la diocesi in gruppi di parrocchie, assegnando a ciascun gruppo dei missionari, aiutati da catechisti laici. Da quella divisione Cugli risultò un centro di missione, con annesso il villaggio di Dardigli. Ci fu tramandato il nome dei confessori della fede che esercitarono un così eroico ministero in questa regione e si ricordano i reverendi Royer e Chaillou Sulpiziani, già superiori del seminario maggiore, un religioso scacciato dal suo convento dalla persecuzione, don Carlo Balley, che avremo occasione di conoscere intimamente, e don Grobot, vicario della parrocchia di Saint-Croix, che fuggito in Italia all'inizio della rivoluzione aveva rivalicato le Alpi per prendere il posto di tanti suoi fratelli condannati a morte. Questi quattro preti dimorarono ad Écouligny in posti diversi e per precauzione assunsero un mestiere che però non esercitarono. Don Balli era falegname e don Grobot era cuoco. Gli utensili che essi portavano davano una giustificazione dinanzi al pubblico e un pretesto per poter andare e venire. Uscivano solo al crepuscolo e per vie solitarie si recavano al luogo stabilito per la celebrazione dei divini misteri. La prima confessione di Giovanni Maria Vianney. Questi uomini, invecchiati prima del tempo, sul cui viso erano impressi i segni di tante fatiche e privazioni, sostenute per le anime, erano contemplati all'altare dal piccolo Vianney con religioso rispetto e commozione. Ai loro occhi stessi però non sfuggì quel fanciullo dallo sguardo limpido che dava alla sua preghiera così viva espressione di raccoglimento e di fervore. Nell'anno 1797 don Grobot, parlando per Dardigli, fece una visita alla casa dei Vianney, benedisse i figlioli ad uno e, arrivato a Giovanni Maria, gli rivolse queste parole: «Quanti anni hai?» 11. «Da quanto non ti confessi più?» «Non mi sono mai confessato», rispose il fanciullo con meraviglia. «Ebbene, ti confessi ora». Giovanni Maria rimase solo col sacerdote e cominciò la sua prima confessione. «Mi ricordo sempre di questo fatto», raccontava più tardi il santo, «mi confessai nella mia casa vicino all'orologio». Che peccati avrà potuto confessare? Viene spontaneo il pensiero che il perfetto candore di quel fanciullo dovette destare viva meraviglia nel sacerdote che i disegni della divina provvidenza avevano colà inviato perché ricevesse le sue intime confidenze. Fu certo per lui una rivelazione. A questo fanciullo era però necessaria un'istruzione religiosa più completa e l'avrebbe potuta trovare presso le dame catechiste, stabilite segretamente ad Écouligny. A don Grobot non fu difficile renderne persuasi i genitori, che pensarono tosto alla possibilità di mandare Giovanni Maria per alcuni mesi nel villaggio vicino, in casa di Margherita Belus, sorella di sua madre, passata a nozze con Francesco Humbert. Ad Écouligny, nella masseria di Point du Jour. Per ragioni più gravi, forse perché Giovanni Maria potesse continuare i suoi studi alla scuola del maestro Dumas, si differì fino all'anno seguente tale progetto e solo nel mese di maggio del 1798 Maria Vianney condusse ad Écouligny il suo figlio prediletto. Le condizioni erano semplici. Margherita darebbe alloggio al nipote ed i genitori provvederebbero per il vitto e i vestiti. Grazie a questa combinazione Giovanni Maria poteva vedere sovente alla masseria di Point du Jour, questo nome attraente stava scritto sulla casa, i suoi genitori, i fratelli o le sorelle. In quel frattempo, causa alla distruzione del loro convento, avevano dovuto cercare asilo ad Écouligny due suore di San Carlo, Suor Combe e Suor Deville, che accettarono dai missionari il delicato incarico di preparare i fanciulli alla prima comunione. A queste fu affidato Giovanni Maria, con una quindicina di altri ragazzi. Il gran giorno fu preceduto da un ritiro durante il quale il giovane Vianney sembrò completamente assorto in Dio. A quella età, ha detto Fleury Verisel di Dardigli, noi già lo consideravamo come un piccolo santo. Pregava continuamente e non trovava più piacere in nessun'altra cosa. Guardate, dicevano i suoi compagni, dandogli un soprannome che forse era comune al casato di Matteo Vianney. Guardate il piccolo Grass che gareggia col suo angelo custode. La prima comunione di un santo. Si era al 1799, cioè all'epoca del secondo terrore, nella stagione della raccolta del fieno. La calma, seguita alla caduta di Robespierre, era stata di breve durata e si era ripresa la persecuzione contro i cattolici che vedevano i loro preti morire a centinaia, deportati nella Guyana o internati nei forti di Rochefort, di Re o di Oléron. Lo stesso pontefice Pio VI, vegliardo di 82 anni, era nelle mani dei rivoluzionari. Nel calendario repubblicano, che rimaneva tuttora in vigore, la domenica era sostituita dal decimo giorno della Tecate e le belle feste religiose, tanto care al popolo, erano proibite e sostituite con cerimonie ridicole. Per pregare si doveva quindi ancora nascondersi. Dove celebrare la festa della prima comunione? A di cui lì la signora Pingon possedeva una casa con vaste adiacenze e i reverendi Chaillou, Grobot e Balley decisero di celebrare lì la festa dei bambini, festa di paradiso, radiosa e tranquilla in un tempo di pace e che doveva essere celebrata di nascosto in quella fine di primavera. Di buon mattino i 16 comunicanti di Dardigli furono condotti a piccoli gruppi con i loro abiti ordinari in una vasta sala, con le persiane ben chiuse, perché ogni fanciullo avrebbe tenuto in mano una piccola candela e all'esterno non se ne dovevano scorgere i riflessi. Per maggior precauzione, davanti alle finestre erano stati allineati carri di fieno che vennero scaricati durante la funzione. Le madri avevano portato ben nascosti sotto i loro lunghi mantelli il velo per le bambine e la fascia per i fanciulli e preparavano i loro figli per la visita dell'ospite divino. Giovanni Maria aveva compiuto i 13 anni. Anima già affinata nei sentimenti soprannaturali, poteva apprezzare il grande dono che stava per ricevere. Sentiva la fame di Dio, resa ancor più acuta per la lunga attesa imposta dalle circostanze. Ricevette l'Eucaristia con cuore pieno di fede, di desiderio e di amore. «Ero presente anch'io», ha detto Margherita Vianney. «Mio fratello era così felice che non voleva più uscire dalla sala», dove aveva avuto la fortuna di ricevere per la prima volta la Santa Comunione. Senza dubbio, egli già gustava allora il senso di quelle parole che un giorno usciranno infuocate dalle sue labbra sacerdotali. Quando si riceve la Comunione, si prova qualche cosa di straordinario, una gioia, un balsamo, un benessere che passa per tutto il corpo e lo fa sussultare. Siamo costretti a ripetere, come San Giovanni, «è il Signore». Oh mio Dio, che gioia per un cristiano che, alzandosi dalla mensa eucaristica, se ne va col paradiso nel cuore. In seguito non parlerà mai della sua prima comunione, senza che dai suoi occhi scendano lacrime di consolazione. Ed ancora, 50 anni più tardi, mostrerà ai fanciulli d'Ars il modesto rosario, ricordo della sua prima comunione, esortando a conservare anch'essi il proprio. Il giorno medesimo, Giovanni Maria ritornò con i suoi genitori da Dardigli. Era ormai passata la sua fanciullezza e finito il tempo di dedicarsi allo studio. Quantunque piccolo di statura per la sua età, era robusto assai e diventava necessario per i lavori della casa e della campagna. Da quel giorno, nella casa paterna, si sentì più ancora di prima il profumo delle sue virtù giovanili. Il suo carattere aperto, la perfetta cortesia che lo portava a salutare tutti con gentilezza, servirono a guadagnargli in Dardigli la simpatia d'ogni cuore. Agricoltore e vignaiuolo, 1799-1805. Il lavoro santificato. Il colpo di Stato del 18 Brumaio anno quarto, 9 novembre 1799, che metteva nelle mani del generale Bonaparte i destini della Francia, ebbe come conseguenza la liberazione della Chiesa dal giogo persecutore, prima ancora che si emanassero le leggi di libertà. Ben presto, traendo profitto dalla tolleranza del primo console, i sacerdoti, lasciata la terra di esilio, ritornarono alle loro chiese, che si riaprirono dopo tanto tempo, ed anche i reverendi Don Grobon e Don Balley, rientrati in Écully, vi celebrarono la messa pubblicamente. Ne approfittarono tosto la famiglia dei Vianney ed i cattolici di Dardigny, che affluirono alla chiesa ben felici di poter finalmente santificare la domenica. Giovanni Maria godette, vedendo scintillare davanti all'altare la piccola lampada, segno di una presenza amata. I cuori di tutti cominciarono ad aprirsi alla speranza. La gente, però, continuava a chiedersi quando Dardigny avrebbe avuto il suo pastore. D'ora in avanti anche il lavoro campestre sembrerà meno duro, perché uno sguardo verso la chiesa lontana darà coraggio al lavoratore affaticato. Ora il Giovanni Vianney comincia a maneggiare arnesi più pesanti, avendo lasciato a Gotonni e a Francesco, di appena 9 anni, la custodia del gregge. Valido aiuto a suo padre, al fratello maggiore, al garzone di casa, secondo le diverse stagioni, egli lavora la terra, zappa la vigna, coglie le noci e le mele, scava fossati, pota gli alberi, prepara fascine di legna nel bosco e si interessa del governo del bestiame, della fienagione, della mietitura, della vendemmia, dei lavori del torchio. Tutte azioni piccole o grandi, secondo l'intenzione che le anima. Per Giovanni Maria Vianney furono grandi, perché le offriva sempre e di gran cuore a Dio. Più tardi, in certe espressioni che usciranno dalle sue labbra, leggeremo il segreto della vita interiore della sua gioventù. In uno dei suoi catechismi diceva: bisogna offrire a Dio il lavoro, i propri passi, il riposo. Oh, com'è bello fare tutto in compagnia di Dio! Su, anima mia, se operi con Dio, mentre tu lavori, Dio benedirà le tue fatiche, mentre cammini, benedirà i tuoi passi e non dimenticherà nulla. La privazione di uno sguardo, di una soddisfazione, tutto sarà scritto. Ci sono delle persone che approfittano di tutto, anche dell'inverno. Fa freddo ed esse offrono a Dio le loro piccole pene. Com'è bello offrirsi a Dio in sacrificio ogni mattina. In tale modo, nei campi e alla masseria, Giovanni Maria santificava la sua anima, tenendo fisso il pensiero nel mondo invisibile. Né fu per questo indolente o fantastico, data la sua costituzione robusta e il temperamento portato all'azione. Un giorno, poco dopo la sua prima comunione, era andato col fratello Francesco a lavorare nella vigna e, avendo voluto tenere dietro al fratello maggiore quindicenne, alla sera se n'era tornato stanco e sfinito. «Ho voluto tenere dietro a Francesco», disse a sua madre, «e sono qui sfinito». «Francesco», disse allora la madre impietosita, «lavora un po' più adagio ed aiuta Giovanni Maria, che è meno forte di te». «Oh», rispose Francesco tranquillamente, «Giovanni Maria non è obbligato a fare quanto me. Che direbbe la gente se il maggiore non lavorasse più del minore?» Il mattino seguente, seguendo le parole di Margherita Vianney, che ci ha conservato questi interessanti ricordi, passò dalla nostra casa una suora dell'antiquaglia di Lione che diede a ciascuno di noi un'immagine. Portava pure con sé, rinchiusa in un astuccio, una piccola statua della Santa Vergine. Tutti volevano quella statuetta, ma ella la regalò a Giovanni Maria. 2 giorni dopo andò a lavorare con Francesco e, prima di mettersi al lavoro, baciò devotamente i piedi della statuetta, indi la gettò davanti a sé il più lontano possibile. Quando nel lavoro l'ebbe raggiunta, la prese ancora con rispetto e ripeté il suo gesto. La sera, ritornata a casa, disse alla madre: «Abbiate sempre grande confidenza nella Santa Vergine. Oggi l'ho invocata molto ed ella mi ha esaudito, perché ho potuto seguire mio fratello nel lavoro senza fatica». Francesco e Giovanni Maria lavorarono così fianco a fianco per 8 giorni. Avanzavano in silenzio come 2 trappisti. Per non annoiare Francesco, il più giovane pregava a bassa voce o mentalmente e mentre dava il suo colpo di zappa pensava: «Così bisogna pure che tu coltivi l'anima tua, estirpando da essa tutte le erbe perché sia preparato il terreno per la buona semente». Quando invece si trovava solo nei campi, dava pieno sfogo al suo entusiasmo e univa la sua voce al gorgheggio degli uccelli, recitava ad alta voce delle preghiere e cantava inni religiosi. Ebbe l'abitudine, fin da fanciullo, di benedire l'ora, aggiungendo alla breve preghiera dell'Ave Maria che già recitava quando suonavano le ore questa formula pia: «Dio sia benedetto, coraggio anima mia, il tempo passa e l'eternità si avvicina. Viviamo come dobbiamo morire. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio». Dopo pranzo, all'ora del riposo, Giovanni Maria si sdraiava sull'erba con gli altri, ma egli fingeva di dormire, mentre in realtà pregava a Dio con tutto il cuore. Giovanni Maria non poté passare molte ore sui banchi della scuola, e perfezionerà la sua intelligenza e maturerà il suo giudizio in mezzo al lavoro dei campi. Mentre questa laboriosa esistenza lo dispose a più dure austerità, nella sua memoria vanno formandosi immagini concrete che gli saranno utili un giorno quando, per predicare la verità, sull'esempio di nostro Signore Gesù Cristo, prenderà l'ispirazione dagli spettacoli della natura e dalle scene della vita familiare. Osserva il volo delle bianche colombe che fanno pensare allo Spirito Santo, il grano di frumento consegnato alla terra che ha bisogno di sole e di pioggia per divenire spiga. Gli sembra l'immagine dell'anima fecondata dalla grazia. Certi frutti ingialliti perché bacati da un verme sono per lui simbolo di apparenti opere buone, ispirate e guastate dall'orgoglio. Respira il profumo della vigna in fiore, meno soave di quello di un'anima in pace con Dio. Il succo di un grappolo d'uva matura rappresenta ai suoi occhi la dolcezza squisita della preghiera. Un campo incolto gli rammenta la coscienza imbrogliata del peccatore. Osserva il fumo che d'inverno turbina sul fuoco dei pastori e pensa: le croci gettate nelle fiamme dell'amore sono come i fasci di legna che questo fuoco riduce in cenere. Le spine sono dure, ma la cenere è molle.